Ho passato momenti che non mi scordo. Dicono che siamo di cornice perché stiamo sul bordo. Non sai quante cose ho da risolvere. Tipo lascio indietro tutto e penso solo a correre. Non so bene dove sto andando. Spero solo di aver fatto giusto il calcolo. Vogliono stare al nostro tavolo. Io penso a quando ci odiavano. Ora non mi credi, non ascolti che dico. Cambi questo e quello e pensi giusto che è fico. Mi chiedo là fuori chi ti resta di amico. Se una pistola spara un bandito, resta un bandito. Cambiare è importante. Ho bisogno di svago e di mettere soldi da parte. Te dalla mia parte, forse ne ho viste tante per averne 19. L'inverno sta finendo e sotto gridano il mio nome. Il mio migliore amico ha detto faccio una rapina. Gli ho detto tranquillo, ho una chance tra le dita. Dal pane con il burro già alle 6 di mattina. Mando un bacio a mamma e 10.000 da una panchina. Perché ho più di 21 motivi per farcela. Con noi oppure nada, resta lì con chi chiacchiera. Voglio trovare il mare come nel mio decoder. Questa è la mia storia, in più c'è scritto Milano Ovest. Chiuso in camera d'hotel, scopro che forse non c'è una via giusta per te. Una d'uscita per me. A volte è dura Monfra, ma io sorrido Monfra. Parlano e dicono di noi tutte impressioni mone. Guarda qua, la mia città. Il sole in quartiere, ora è Panama. Viaggio come se io avessi un Panamera. Se passo i problemi, dove sta il problema? Cambiala, cambiala. Se la via sbagliata, allora cambiala. Non mi sulla pelle di chi prima c'era. Fiori nei cannoni quando arriva sera. Ho passato momenti che non mi scordo. Lo testimoniano i segni che ho sul corpo. Non mi capacito di come tu e il tuo socio siate in tele. Mentre mio fratello è morto a quell'incrocio. Intrappolato in questa city dannata. Stiamo brindando in spiaggia ma ci manca la strada. Ho un tavolo all'inferno ed ho portato tutti brada. Perché in paradiso fanno selezione all'entrata. Ho ancora mille pare però sopra un carriera. Poteva andarmi male invece ho fatto carriera. Mio fra pieno di rabbia è peggiorato in galera. Perché un gatto nero in gabbia diventa una pantera. Se ripenso ai giorni alla fermata di quel tram. Ho messo a fuoco il mio futuro dandomi una chance. Il mio presente non cancella i traumi del passato. Ne copre il boato mentre la mia storia brucia come Notre Dame. Mamma non pensava che facessi sul serio. Sembrava un gioco prima che arrivassero gli euro. Sopra un vecchio treno con le mie ferite. Pensavo che quelle rotaie fossero infinite. Non ho mai confuso l'avarizia con la fame. Tengo amici affari separati come i miei. Me ne fotto dei carati su queste collane. La mia stella brilla in cielo dal 2006. Chiuso in camera d'hotel, scopro che forse non c'è una via giusta per te. Una d'uscita per me. A volte è dura Monfra, ma io sorrido Monfra. Parlano e dicono di noi tutte impressioni mone. Guarda qua, la mia città. Il sole in quartiere, ora è Panama. Viaggio come se io avessi un Panamera. Se passo i problemi, dove sta il problema?